La polemica sull'ultimo dossier del Dipartimento di Stato statunitense che fa il punto sulla sfida terrorista aveva già visto gli strali di qualche analista americano ed europeo, ma una sua attenta lettura ha messo in allarme anche i ricercatori indiani del South Asia Terrorism Portal, organismo indiano non governativo, molto documentato specie sul computo delle vittime civili collegabili ad atti di terrorismo o di conflitto. Proprio la sua maniacale precisione gli ha fatto rilevare le molte imprecisioni del dossier del Dipartimento di Stato, al punto di riscriverne il titolo come «Il racconto di un idiota». La miccia è stata innescata dalla presentazione del dossier in videoconferenza a New Delhi in maggio, presentazione che ha sconcertato per l'estrema approssimazione della raccolta dei dati, peraltro già criticata anche dalla stampa americana. Gli indiani notano come il dossier fissi a 190 il numero di atti terroristici nel mondo, con 307 morti nel 2003, 82 dei quali americani, col risultato che sarebbero dunque soprattutto gli Stati Uniti il vero obiettivo del terrorismo globale. Ma per la sola India, il think tank di Delhi ha contato centinaia di casi di morte che, secondo i parametri del dossier americano, andrebbero citati sotto la voce terrorismo. Il rapporto americano, invece, conta solo 99 morti indiani contro i 658 civili listati dal portale asiatico nel 2003. La discrepanza nella percezione, come gli americani hanno cercato di giustificare il gap tra i dati del dossier e le risultanze locali, finisce dunque per dare un quadro piuttosto distorto del fenomeno. Sia detto per correttezza di informazione, il dipartimento diretto da Colin Powell, l'uomo che esibì la famosa boccetta con l'arma chimica all'ONU per giustificare la guerra d'Iraq, ha già ammesso che il dossier è incompleto, in molti casi scorretto, e ne ha promesso una revisione. Emanuele Giordana, Lettera 22, Amisnet.